farmi male. Ogni parola stride divorando carne ad ogni goccia, uccidi un altro sguardo. La città non è più mia, questa città non è più mia. La città non è più mia, questa città non è più mia. La città non è più mia, questa città non è più mia. La città non è più mia, questa città non è desiderare quello che nascondi dietro la normalità. La città non è più mia.